известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. Questo è divertente. Saturday Night Live, i giornalisti vanno a interrogare, anzi a rompere scatole al presidente Obama. Mr. President, are you okay? Non gradisce. Sta bene, presidente? Oh my God, what happened? Che succede? Barack Obama angry. And when you make Barack Obama angry, he turns into The Rock Obama. Non so se avete capito, ma se fate arrabbiare Barack Obama, dice il Saturday Night Live, il programma comico americano, e non ci resta che ridere, potrebbero pensare alcuni americani, se fate arrabbiare Barack Obama, lui diventa tutto verde, gli si strappa la camicia e diventa The Rock Obama. Insomma, una specie di un incrocio fra Hulk e quello del wrestling. Sì, pigliatelo in giro, intanto Barack Obama mette firmette a tutto spiano. Ormai abbiamo capito, la settimana scorsa è stata la conferma definitiva di un sospetto che già nutrivamo. In realtà due al prezzo di uno, l'America in questo momento è a doppia velocità e di presidenti in azione ne ha praticamente due, e questa è una scelta che va accreditata, insomma, a Barack Obama e al suo staff. In un certo senso è stata demandata, non dico in toto, ma in larga fetta alla competenza e alle capacità di Hillary Clinton tutta la questione internazionale, tutto il fronte estero è in mano alla diplomazia, al segretario di Stato Hillary Clinton, che si sta muovendo a largo raggio e anche con risultati, mi sembra di poter dire, piuttosto interessanti, perché Barack Obama è in emergenza in quanto presidente prima di tutto degli americani, e quindi le sue energie, le sue apparizioni, i suoi sforzi e credo anche il suo tempo e la concentrazione del suo staff, verrebbe da pensare anche i quattrini che deve spostare, li dedica essenzialmente alle questioni nazionali. È stato così la settimana scorsa, nonostante le notizie principali siano arrivate dai fronti internazionali, dove appunto si muoveva a tutto campo Hillary Clinton, e si suppone che sarà lo stesso anche questa settimana, se la settimana americana si apre con l'annuncio della decisione di Obama di revocare, lo avrete letto sui giornali, sui siti internet o in televisione, lo avrete sentito, di revocare le restrizioni imposte dalla amministrazione Bush alla ricerca sulle cellule staminali embrionali. È un vero e proprio cambiamento epocale, si dice, però la stampa americana nei vasti articoli che dedica al tema oggi sottolinea che se è vero che la nuova amministrazione libererebbe i fondi per la ricerca sui ceppi di staminali già esistenti e quelli ricavabili da embrioni nelle cliniche per la fertilità, quelli comunque destinati a essere distrutti, la scelta sulla possibilità per gli scienziati di creare embrioni ad hoc per la ricerca attraverso il finanziamento federale sarà, questo scrive il New York Times, delegata al Congresso. E vi ricordo che i finanziamenti federali alla ricerca embrionale furono messi al bando nel 96 con un emendamento famoso che porta i nomi di D.K. Wicker e che divenne legge in quell'anno e che da allora ogni anno è stato rinnovato dal Congresso, una norma che proibisce l'impiego del denaro proveniente dal fisco, dal gettito fiscale, per creare embrioni umani, di fatto, insomma, paralizzando la ricerca. Obama oggi dovrebbe firmare questo ordine esecutivo che indicherà chiaramente che il governo, un vero e proprio cambio di rotta, importante, destinato a suscitare eco, a suscitare reazioni in tutto il mondo, e domani noi pensiamo di dedicare una parte del programma Obama all'argomento. Insomma, comunque indicherà chiaramente questo ordine esecutivo che il governo americano vuole sostenere la ricerca sulle staminali estratte da embrioni umani. Per cominciare, l'ordine esecutivo consentirà la ricerca sulle centinaia di colonie di staminali già esistenti ed estratte in passato da embrioni, come anche su embrioni già creati, generalmente avanzati da trattamenti di fecondazione assistita. Aspettatevi domani mattina sulle nostre pagine Facebook una proposta di partecipazione al tema in questione, e poi nel corso della trasmissione Jefferson di domani vedremo di discutere con chi ne sa più di noi. Vi dicevo di Starsky Hutch, no? Di Starsky Hutch di Pennsylvania Avenue, Hillary e Barack che si muovono ormai a squadra, un po' di concerto. Si è chiusa una settimana importante per Hillary Clinton in giro per il mondo, ha preso forma questa politica estera della mano tesa, così è stata chiamata, l'America che cerca una svolta dopo 8 anni George W. Bush. Sono partiti segnali di apertura verso Iran, Afghanistan, Siria, Corea del Nord, Russia, vi ricordo le foto di Hillary Clinton a fianco al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, al quale Hillary ha regalato, no, quel simbolico tasto di reset, no, per sottolineare la sua volontà di ricominciare da capo. Resettiamo tutto, smettiamo di litigare. A Damasco nel fine settimana sono arrivati per la prima volta due inviati americani. La Clinton ha invitato l'Iran a prendere parte ai colloqui internazionali sull'Afghanistan, dove le cose, ha detto un generale che conta, in queste ultime ore le cose stanno andando tutt'altro che bene. In Iraq invece si pensa addirittura di accelerare i termini del ritiro, magari anche di risparmiare qualche soldino, viene da pensare. Entro pochi mesi avverrebbe la prima riduzione di 12.000 militari. Nel frattempo è previsto l'afflusso dei 17.000 soldati americani che andranno a rinforzare i 38.000 già presenti in Afghanistan. Tutto lo scenario è in moto e Hillary Clinton nei resumé di fine settimana ha detto di volere comunque che si badi alla sostanza, lasciate perdere me, lasciate perdere la mia figura, cerchiamo di ottenere risultati. Risultati e punti interrogativi. Un punto interrogativo abbastanza terrificante, devo dire, è apparso questa mattina sulle agenzie di tutto il mondo. Quelle americane lo hanno sottolineato con particolare intensità, le nostre sono state decisamente più tiepide, perché in Corea del Nord si sta muovendo qualcosa di molto grosso e molto preoccupante, perché un portavoce dello Stato Maggiore dell'esercito nordcoreano ha fatto sapere esattamente quanto segue: reagiremo a qualsiasi azione volta a intercettare il nostro satellite destinato a un uso pacifico e contrattaccheremo rapidamente coi mezzi militari più potenti. Questo detto dopo che i nordcoreani sono stati ripetutamente ammoniti per chiedere la sospensione di questo esperimento, che pochi credono, come indicano i nordcoreani, sia indirizzato alle telecomunicazioni, a spedire insomma un satellite per le telecomunicazioni. In realtà si è convinti che il lancio sia un lancio missilistico a tutti gli effetti, sebbene di prova, e l'agenzia ufficiale nordcoreana reagisce con violenza, parla di una rappresaglia che potrebbe colpire non solo i mezzi di intercettazione messi in campo. Gli americani stessi hanno fatto sapere di essere pronti a un cenno di comando della presidenza a intercettare il missile in questione, e i nordcoreani replicano dicendo: potremmo colpire anche le basi degli aggressori americani e giapponesi, fanno i nomi con precisione, e le loro marionette sudcoreane, alla faccia della distensione, che complottano per intercettare il nostro satellite. L'inviato della Casa Bianca, che si chiama Stephen Bosworth, da Seul ha annunciato la volontà degli Stati Uniti di avviare un dialogo con Pyongyang. Allo stesso tempo aveva ribadito l'invito americano a rinunciare al lancio del satellite. La data, il momento, l'ora del lancio in questione non è noto. Sicuramente c'è un grande nervosismo e, come dire, una voragine di crisi che si potrebbe aprire da un momento all'altro se qualcuno non frena la propria iniziativa, dal momento che la rotta sembra assolutamente una rotta di collusione, e quella che minaccia la Corea del Nord da qualche parte si chiama, seppure limitatamente, si chiama guerra. Vedremo come si sviluppa anche questo potenziale teatro di crisi, mentre un teatro di distensione su cui in parecchi scommettono in queste ultime ore è quello che ha come centro Cuba, perché l'incontro tra Lula e Obama sembra un altro segno di avviate pratiche di distensione, insomma, per la rimozione dell'embargo nei confronti di Cuba da parte degli Stati Uniti d'America. Tra poco sentiremo i vostri pareri al riguardo, perché è stato il tema della discussione di oggi a Express Yourself. La chiacchierata, l'incontro, il vertice Lula-Obama avrà bisogno di tempo per mettere a punto una strategia che dovrebbe poi prendere forma nell'imminente vertice americano, quello del 17 aprile, che si terrà a Trinidad e Tobago. Ma da parte brasiliana Lula ha ricordato che gli Stati Uniti dovrebbero avere nei confronti dell'America Latina uno sguardo puntato allo sviluppo, non pensare solo al narcotraffico, al crimine organizzato, ma al tempo stesso ha dato la propria disponibilità per aiutare gli Stati Uniti, anche se ancora non ci hanno fatto alcuna richiesta, neanche Cuba ci ha chiesto nulla. Ma ha detto Lula: se possiamo, daremo una mano per favorire la distensione. Una mano la danno anche le molte aziende americane che guardano con interesse a Cuba, grandissimi sono gli interessi appunto coinvolti nell'operazione, ma ne parliamo tra poco. Tutta questa carne al fuoco, chiediamo scusa a Bebel Gilberto, ma dobbiamo andare avanti. Vi abbiamo scritto questa mattina che, con l'intenzione di migliorare la reputazione statunitense in Sud America, Obama si sta preparando a porgere un ramoscello di oliva a Cuba in vista dell'imminente G20 di aprile nel Regno Unito e anche il vertice americano in Trinidad e Tobago il 17. Nel frattempo aziende americane in fila in attesa che il presidente allenti le restrizioni su commerci, viaggio, turismo, eccetera eccetera. Siamo vicini alla fine dell'embargo. Ci sono sempre gli esiliati cubani della Florida che insistono per la linea dura contro la mancanza di democrazia a L'Avana. Il mondo sta alla finestra. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate dell'attuale situazione, se una distensione e una ripresa di rapporti, che saranno sempre meno problematici, no, di quelli affrontati o da affrontare ancora fin dall'inizio in Medio Oriente. Insomma, tutto ciò è auspicabile? Il regime cubano e l'America di Obama possono trovare un linguaggio comune? Express yourself. Allora, apriamo le danze dei nostri commenti su Facebook, dei vostri commenti su Facebook. Da Cristiano, che appoggia l'iniziativa di Obama e scrive: credo che per favorire un reale progresso sociale nell'isola di Cuba sia indispensabile il miglioramento delle condizioni della popolazione, che non può non passare, attenzione, doppia negazione, attraverso l'abolizione dell'embargo. Poi c'è Maria che invece piazza lì un bel po' di domande, Stefano, domandone, perché dice: ma tutto l'amore cubano per il Venezuela di Chavez si è per caso trasformato in soggezione? Aprire l'America vorrebbe dire tradire l'asse Cuba-Venezuela? E ancora, dal punto di vista mediatico, l'interesse di Obama per Cuba potrebbe essere interpretato come strategia per allentare il fronte medio orientale? Ma direi sia tutto, comunque sia tutto, sia tutto. E questo primo giro lo chiudo con l'analisi di Giovanni, che invece più telegrafico scrive: prove generali di riassetto riguardo la geografia delle influenze strategiche. Sarà una corsa frenetica tra Stati Uniti, Cina e Russia. Claudio, embargo sbagliato a Cuba fin dall'inizio. Probabilmente se non ci fosse stato, oggi ci sarebbe più democrazia. Mauro, credo che oggi ci siano le condizioni ideali per riaprire il dialogo, utilissimo specialmente agli Stati Uniti in questo momento per il rilancio dell'economia. Mauro, la democrazia passa dalla distensione, non dalla guerra. Francesco, finalmente, scrive Francesco, le restrizioni imposte a Cuba hanno portato svantaggi solo ai cubani. Speriamo che Obama continui con questa politica. Qui siamo è un successo. La gente non vede l'ora che l'embargo sparisca. Okay. Mi sembra di capire. Vai. Allora Simone, anche lui dice: gli embarghi sempre e ovunque creano problemi, soprattutto alle popolazioni. Forse gli americani dovrebbero andare a rispolverare il motto del primo presidente, che era Washington il primo presidente, adesso non mi ricordo la storia americana, che diceva: commercio con tutti i paesi e nello stesso tempo amici di nessuno. Sono impreparato. Alberto, molto realista, ma quale momento migliore di questo per iniziare il disgelo tra i due dirimpettai? Nessuno accuserà Obama di eccessive aperture, anche perché con la crisi che dilaga, avere un mercato che deve importare tutto a 90 miglia dalle patrie coste, non dimentichiamolo mai, è un'occasione troppo ghiotta. Ancora un ultimo giro. Matilde, credo che sarebbe l'ora di eliminare l'assurdo embargo, come del resto tutti gli embarghi. Mukeba, nostro fedelissimo, dice: linguaggio comune, sono gli interessi economici il linguaggio comune per Mukeba. L'embargo comunque non è servito a niente, da un Castro si è andato a un altro. Luigi, Raul Castro sta cercando di differenziarsi rispetto al fratello Fidel, con piccole aperture al consumismo, cercando di crearsi una propria burocrazia fedele. Manuel, non si può far finta che a Cuba ci sia la democrazia, non si può pensare che il signor Castro improvvisamente diventi democratico, uno contrario. Riccardo, sarebbe auspicabile anche se la realpolitik clintobamiana nei confronti della Cina prima e di Cuba adesso potrebbe suscitare risentimento da parte delle organizzazioni per la democrazia e la libertà. Massimiliano, apertura e dialogo funzionano meglio delle bombe. Ettore, non è la Cuba di qualche decennio fa. E infine Pierluigi, ottimo lavoro per Obama, il gran giardiniere lo definisce, anche se è un lavoro più adatto a un conservatore come McCain, che non ha nulla da perdere nel proprio pedigree di duro. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Vedremo dove arriva il progetto di amministrazione Obama riguardo a Cuba. Comunque si stanno muovendo rapidamente le cose. Allora, un po' di notizie dal fronte orientale del mondo. Tu prima, Stefano, hai parlato della Corea, di questa tensione che sta salendo alla frontiera tra il nord e il sud. Io vorrei chiosare con una notizia che non ha nulla di straordinario, se non la percentuale bulgara ottenuta da Kim Jong II, che è stato rieletto, anzi Il, ogni volta sbaglio, secondo il Kim Jong Il è stato rieletto nel Parlamento nordcoreano, però addirittura con il 100% dei suffragi. Siamo oltre veramente le percentuali bulgare. Naturalmente non c'è nulla di democratico in questa elezione, che ha visto tutti gli aventi diritto della circoscrizione, cioè il numero 333, che hanno votato per Kim, perché in ogni circoscrizione c'è un solo candidato designato, quindi non c'è proprio bagarre, non c'è proprio partita. Hai presente quando si dice, no, così un po' tristi, un po' lazy, un po' pigri al bar: ah, vorrei tanto farmi la barca, no, vorrei farmi tanto la barca, mi piacerebbe farmi una barca, e l'amico ti guarda, te fa sì, ma i soldi, ma dove li trovi i soldi? Oppure hai presente quando sei un grande consumatore di acqua minerale, bevi tanta acqua minerale e poi fai tutto quel pacchettino con la, perché sei un ragazzo ordinato, con la bottiglia, lo schiacci e lo butti nell'apposito contenitore di plastica. Se tu non fai nessuna di queste due cose e fai come fa questo miliardario, che non capisco che faccia una sciocchezza di questo genere essendo miliardario, David de Rothschild, insomma, della omonima, omonimo casato, e con sole 15.000 bottiglie di plastica, caro Emiliano, ti puoi fabbricare una barca che poi può concorrere a un'apposita regata in giro per il mondo. Una barca fatta solo di bottiglie? Solo di bottiglie, anche molto chic, molto alla moda, molto alternativo, molto energia riciclata, e quant'altro. C'hanno, per galleggiare galleggia. Sì. Galleggia e c'è anche lo sponsor, quindi incassi anche dei soldini. La barca è gratis, tua moglie non so se probabilmente ti ha lasciato mentre attacchi bottiglie. Quanto tempo ci vuole per bere 15.000 bottiglie? Ma poi le devi incollare fra di loro. Vabbè, fermiamoci qua, dai, musica. You know who is a boy, oh boy. I'm not your substitute, I'm fine. Jefferson 2, l'arte della svolta. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Già, ma dall'altra parte che succede? Questa è una domanda che non smettiamo di farci, intendendo per questa e l'altra parte, le due parti della politica americana, democratici e repubblicani. Pensate che oggi c'era un autorevole quotidiano americano che diceva: attenzione cari democratici, potreste ballare, non dico una sola estate, ma facciamo due, e nel 2010 già prendere la prima bastonata con l'aria che tira. Oppure Fox News, di dichiarate simpatie conservatrici, sta in questo momento mandando in onda un bel servizietto sui 300.000 posti di lavoro che lo stimolo economico di Obama dovrebbe procurare agli illegali, insomma, avrete capito, ai clandestini annessi e connessi. Un altro attacco. Allora, noi abbiamo chiamato il nostro amico, nonché frequentatore, Andrea Mancia, vice direttore di Liberal, per porgli un po' di domande, per fare una specie di resumé e andare a vedere che cosa c'è, che cosa si muove in questo momento in casa repubblicana, ovvero come, al di là delle proteste, degli scetticismi, degli attacchi più o meno velati a quello che sta facendo l'amministrazione, che cosa si sta organizzando invece in alternativa e soprattutto puntando su quali personaggi. Perché, per esempio, dal mio modesto punto di vista, un repubblicano che in questo periodo si sta muovendo piuttosto bene risponde al nome, pensate un po', di John McCain, che si riesce di volta in volta sulle proposte democratiche a collocare quasi sempre su posizioni di grandi interessi. Però McCain, lo sappiamo, vecchio, e comunque la sua opportunità l'ha avuta, l'ha giocata, adesso può fare, come dire, il solista del congresso, ma i nomi sono altri e sono nomi molto sorprendenti. E adesso, attorno a questi nomi, vorrei fare una specie così, appunto, di mini sondaggio sulle opinioni di Andrea, che però prima saluto. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Insomma, hai capito più o meno come ci vogliamo collocare? Allora, io ti farei sentire il primo dei personaggi che abbiamo scelto. Thank you all. I can't tell you how wonderful that makes me feel. It happens everywhere I go, but it's still special here. Ecco, questo fa ridere già alla seconda battuta che dice, perché è uno che, contrariamente a noi, la radio sa veramente come si fa, e si chiama Rush Limbaugh ed è il più famoso conduttore radiofonico d'America, che d'improvviso, dopo anni e anni di vita da orso, no, restio addirittura ad apparire in televisione, a farsi, improvvisamente sembra momentaneamente diventato un leader, uno col quale la Casa Bianca litiga, anzi ha proprio il mandato di litigare. Che succede? Com'è possibile, Andrea, che un personaggio veramente estremista come questo possa essere, dal punto di vista partitico proprio repubblicano, una scommessa possibile? Beh, innanzitutto diciamo che la nomina di Rush a leader del Partito Repubblicano l'hanno fatta i democratici, perché pare che a metà ottobre, prima delle elezioni, quindi due degli strateghi ex di Bill Clinton e in quel momento di Obama, cioè Greenberg e Carville, abbiano fatto diciamo quasi una scoperta incidentale, abbiano visto che Rush era uno dei personaggi diciamo che, oltre a essere molto amato da una parte del movimento conservatore, era anche molto odiato da diciamo moderati e democratici. E pare che in quel momento abbiano coinvolto Rahm Emanuel, cioè l'eminenza grigia, certo, come lo chiamo io, quello con la delega ai Thirst Tricks dell'amministrazione Obama, e hanno deciso di farne un caso più di quanto non lo fosse in realtà. Fondamentalmente, ma vogliamo pensare comunque sia un caso mediatico o qualcosa di più? Beh, lui è un caso di per sé, certo, cioè certo. Trasmissione di Rush, 4 ore o 3 ore e mezza più la pubblicità, trasmesse tutti i giorni da 650 emittenti su tutto il territorio nazionale, sì. Ricordiamoci, ma c'è il conflitto di interessi, Andrea. Questo è un personaggio che guadagna 50 milioni di dollari, certo, all'anno soltanto con uno show radiofonico, diciamo che è un caso di per sé. Da qui a farne un leader politico, diciamo che il tentativo, secondo me, dei democratici, o almeno abbastanza esplicito dei democratici, perché poi lo hanno più o meno velatamente ammesso, è stato quello: non c'è più Bush alla Casa Bianca, non c'è più Cheney, non c'è più Rumsfeld, la Palin diciamo è un po' in ombra, con chi vogliamo identificare il Partito Repubblicano per fare in modo che sembri più estremista di quanto non sia mediamente? A me sembra molto azzardata come scelta, però ascolta, perché quella è azzardata, dice Pistolini, che non sa le cose. Senti questa. Well, I am very glad to be here today, and I'd like to talk a little bit about the principles of conservatism and questo signor Saputone di anni 14 è diventato a sua volta il soggetto di un quarto d'ora di celebrità in America, perché però ce l'hanno fatto andare lì a parlare questo signorino, perché ripeto, 14 anni, Jonathan Cron. E c'è anche chi ha scritto qualcosa, come dire, di attendibile, che non andasse di là lo sposta di Sgorbio, insomma, perché che cosa significano queste mosse? Sono diventati situazionisti repubblicani? Qual è l'aria? Ma un po' situazionisti lo sono sempre stati, dal 94 ad oggi. Questa è stata una buona mossa mediatica, secondo me, degli organizzatori del CPAC, la Conservative, certo, Political Action Conference, che gli ha tirato un po' di pubblicità mediatica. Oggettivamente lui sembra veramente più grande di quanto non sia, e riesce anche a fare discorsi più sensati, diciamo, della media di quelli che ho sentito io al CPAC di quest'anno. Mm-hmm. Però anche lui, insomma, non mi sentirei di nominarlo automaticamente come uno dei possibili futuri leader del Partito Repubblicano. Lui nel 2012 non voterà. Certo. Va bene, allora lasciamolo da parte e invece passiamo a uno che fino a poco fa sembrava proprio l'eletto, no? All of us want our economy to recover and our nation to prosper. So where we agree Republicans must be the president's strongest partner. Cioè l'hanno portato in alto, in alto, in alto, poi gli stessi repubblicani hanno dato uno spintone tremendo e l'hanno buttato giù dalla torre. Si chiama Bobby Jindal, è nero, nerino, insomma, indiano di India, governatore della Louisiana, si è battuto contro Katrina, insomma un sacco di cose, però gli hanno dato l'incarico di fare il discorso che rispondesse a Obama una settimana fa, e poi da lì in poi hanno deciso che, per carità, lasciamo perdere, non è la persona giusta. Che cosa dice? Hanno esagerato anche in questo caso? Io dico che se facciamo l'esercizio di leggere la versione scritta del discorso di Obama di quel giorno e il discorso di Jindal di quel giorno, la distanza fra i due sembra molto meno grande di quanto non ci possa sembrare sentendoli. È una questione soprattutto di delivery. Lui è, oggettivamente è un oratore mediocre, diciamo così, e soprattutto comparato a pochi minuti di distanza con forse il più grande oratore della nostra epoca, almeno col teleprompter davanti, che è Barack Obama, oggettivamente ha fatto una figura che gli stessi commentatori conservatori hanno veramente bocciato senza pietà. A me sembrava troppo portato in alto prima, ma sinceramente mi sono sembrate anche un po' ingenerose. Eccessive le critiche. Diciamo dopo. Rimandate. Va bene, ho un'altra cosa a farti sentire. How would you describe the purpose of the trip for you? Really to show that it's the public. Si sente male questa vocina, sentiamola ancora. Perché l'hanno beccata che stava distribuendo panini in una zona remota dell'Alaska in qualità di governatrice dello Stato stesso. Come dire, Sarah Palin dalle stelle, non dico alle stalle, ma ai panini nei paesi sotto la neve in Alaska. Ma dov'è finita l'idea, caro Andrea, di riportare, come dire, o di fortificare una candidatura credibile di Sarah Palin dopo, insomma, il notevole rumore che ha fatto la scorsa estate? Ecco, secondo me la Palin invece è una natural rispetto a questi tre che abbiamo sentito, a parte Rush nel suo mestiere, però non in quello di leader del partito. Lei ha veramente, riesce davvero dal vivo a trasmettere qualcosa che gli altri non riescono a trasmettere, però deve ancora studiare molto e lavorare molto. Come diciamo controcanto a una candidatura tiepida, almeno per la base del partito, come quella di John McCain, poteva anche funzionare, o quantomeno si è provato a vedere se poteva funzionare. Se deve essere però a capo di un possibile ticket, secondo me Sara fa meglio a fare la governatrice ancora per qualche anno, e poi se ne riparlerà, perché per ora non è pronta. Senti, io il discorso mi sembra molto interessante, questa ispezione fra le personalità mi sembra interessante. Io ho tre nomi, ma pochissimo tempo, quindi aiutami tu, te li dico tutti e tre insieme e fammi una somma: Newt Gingrich, Rick Santelli e Michael Steele. Allora, Michael Steele medio-basso, è partito male, poi ha avuto la malaugurata... Capo del partito è nero, afroamericano. Afroamericano, capo del Republican National Committee. In teoria questo è un organismo che dovrebbe raccogliere fondi per le elezioni. Steele farebbe meglio a cercare di colmare il gap che lo separa a livello finanziario dai democratici, invece di avventurarsi in cose che non lo competono. Ritorno di Gingrich? Il ritorno di Gingrich come forza motrice intellettuale dietro al movimento conservatore è sicuramente possibile, come frontman sicuramente improbabile. Lasciamo perdere Santelli, invece di giro una domanda al nostro ascoltatore, dammi una risposta fulminea per concludere, è un nostro affezionatissimo e glielo devo. Ti possiamo chiedere se c'è speranza di tornare al conservatorismo fiscale, alla tendenza libertaria antistatalista, oppure sono i conservatori destinati a inseguire i Democrats? Che dici? Questa è la grande dicotomia di fronte alla quale si trovano i repubblicani nei prossimi due anni. Io spero fortemente di sì, i rischi che però anche i conservatori americani cedano alla deriva populista e statalista che sta attraversando tutta la destra europea sono concrete. Grazie Andrea Mancia e la sua competenza. Inseparable. And I remember when when you could do no wrong. You come home from work and I jumped in your arms when I saw you. I was so excited. I was so happy. Happy to see you. Because you love me, I overcome. Yeah. And I'm so proud of what you've become. Security. No matter what mistakes I make, you're there for me. You cure my disappointments and you heal my pain. You understood my vision, you protected me. A treasure every year, a place of memory. And that's why I want my unborn son to be like my daddy. I want my Allora, è appena apparso, sta salutando fotografi e reporter Barack Obama, la questione è quella delle staminali, farà un discorso, darà un annuncio di grande importanza, come vi abbiamo detto ne torneremo a parlare domani, lui sta cominciando invece a parlare adesso, magari ancora sentiamo qualcosa. Abbiamo però in linea Saro Capozzoli, il presidente IESA, una società di consulenza per le aziende italiane che vogliono fare affari in Cina, e un grande amico di Jefferson, nonché i nostri occhi prediletti sulla Cina. Ciao Saro. Ciao a tutti. Allora, è molto tardi, ma voglio farti una domanda molto semplice. Leggo quanto segue. Una agenzia di oggi dice: la Cina sta iniziando a registrare i primi effetti del piano anticrisi di rilancio varato dal governo di Pechino, con una crescita degli impieghi, ma non abbasserà la guardia sui futuri rischi potenziali. Poi passo avanti e leggo Panorama Economy, articolo di Geminello Alvi, che comincia dicendo: molti ottimisti reclamano che la Cina sarà la prima a riprendersi, confortati non solo dalla borsa cinese. E infine leggo alcune note che di tanto in tanto tu ci mandi gentilmente, e mi parli di una Shanghai dove i consumi sono in crescita, le strade, i negozi sono pieni, e la Cina respinge un po' quell'immagine di crisi che si va diffondendo per il mondo. Quindi tre fonti diverse concordano su questo quadro. La domanda è: come fanno a fare così in fretta? Ma sembra che loro ce la stanno facendo prima degli altri. Dici, Saro? Sì, beh, ci sono due livelli. Io direi il livello dei consumi, che noi, secondo noi qui, che siamo qui, viviamo qui, non è stato ancora toccato da questa crisi, perché se chiunque vada in giro per Shanghai o per diciamo per città anche di secondo e terzo livello, come si chiamano qua in Cina, nei weekend eccetera, non si riesce a camminare per le strade. Nella Nanjinglu, la strada di Nanchino qui a Shanghai, la domenica ci passano 1,5 milioni di persone. Cioè, per dare i numeri, infatti io ieri ero in giro per la Wahailu, un'altra città, cioè un'altra strada commerciale, e si faceva fatica a stare sul marciapiede. Ecco, dall'altra parte c'è una Cina industriale e produttiva che si sta preparando, che sta evolvendo, ed è questa la cosa che sorprende qua, perché per chi non è abituato, diciamo, il fatto, la capacità di reagire, la capacità di hanno capito che sta arrivando un grosso problema, c'è un problema, lo stanno risolvendo, dando forti iniezioni di capitali, ma non così a casaccio, privilegiando le industrie primarie, l'energia, le industrie, le infrastrutture. Ma non ecco, Sara, ma questa potrebbe essere, pensiamo anche non all'America, ma pensiamo anche ai casi nostri, come si dice, questa potrebbe essere una lezione a cui stare ben attenti, quindi? Diciamo che è una lezione che bisogna fare di più e parlare di meno, cosa che sta succedendo ad esempio in Corea, sta succedendo in Giappone in una maniera un po' meno, diciamo, perché il Giappone viene fuori da un decennio, da 20 anni di crisi, ecco, però stanno reagendo. Purtroppo, e da noi, quello che vedo, si usano vecchie ricette, L'edilizia non è la nuova frontiera, le nuove frontiere sono le energie alternative, quindi hanno deciso che entro il 2015 bisogna il 20% dell'energia che verrà prodotta qui in Cina dovrà essere fatta con energie alternative. Stanno facendo veramente 40 centrali nucleari, ma non solo, stanno anche moltiplicandosi i parchi eolici. Quindi è un continuo, diciamo, un divenire, si guarda al ventunesimo secolo, non si guarda agli anni 60 in Italia. Ecco, no? Per concludere, io so che tu leggi dalla Cina, ma leggi ciò che i nostri giornali pubblicano a riguardo del paese che ti ospita, quindi condividi questa sensazione, questo scollamento, insomma, tra quello che ti vedi d'attorno e quello che viene rappresentato? Sì, io vedo uno scollamento da quello che viene detto sui giornali in Italia, no? E quello che viene detto, quella che è la realtà. Oppure si prendono articoli apparsi su giornali stranieri, l'Herald Tribune, l'Economist, eccetera, e si riportano su giornali italiani una parte di quello che si dice, solo la parte più negativa. Quindi io comincio a sospettare che ci sia proprio un tentativo di mettere questo paese, che avrà tutti i suoi difetti, o se sono il primo a dirlo, sono il primo a dire alle aziende che vengono qui, stiamo attenti di qua, bisogna essere preparati, bisogna essere cauti, eccetera, però ci sono delle, hanno delle qualità che bisogna riconoscere, quella di saper fare le cose, di dire e di farle. Qui hanno deciso di fare 18 metropolitane entro il 2013, ora ce ne sono 9. 9 metropolitane verranno fatte sicuramente entro il 2013, perché la pianificazione è questa, e cosa che purtroppo da noi, dalle nostre parti, ci sono altre priorità. Ecco, si pianifica, però poi si pospone, non ci sono penali per chi fa ritardo. Qui chi ritarda un'opera pubblica, sono, non dico loro, che rischia il carcere, però non potrà più fare un lavoro simile in futuro. Va bene, ecco. Grazie a Saro, che ci ha dato un altro particolare, un altro aggiornamento su questa situazione di scollamento, no? Come se ci fosse una certa incomunicabilità fra la Cina che ci raccontano e la Cina di cui si scrive, insomma un panorama che giorno per giorno cerchiamo di mettere a fuoco. Ha appena detto, mentre chiacchieravamo con Saro, che l'America ha l'intenzione di guidare il mondo nelle scoperte tecnologiche e scientifiche. Sta parlando davanti a una applaudente platea Barack Obama. Adesso ve lo facciamo sentire in chiusura. Vi ricordo che questa è la puntata di oggi di Jefferson 2, l'arte a svolta. Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini e Fabio Cantadori, Roma Milano. Mail jefferson2@radio24.it. Su Facebook le pagine a cui iscriversi sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai dibattiti. Replica a mezzanotte, diretta domani alle 4. Chiudiamo con Obama. Apri Obama. To ensure that in this new administration we base our public policies on the soundest science, that we appoint scientific advisors based on their credentials and experience, not their politics or ideology, and that we are open and honest with the American people about the science behind our decisions. That's how we'll harness the power of science to achieve our goals, to preserve our environment, protect our national security, to create the jobs of the future, and live longer, healthier lives.